l'attimo, può sconvolgere i miei piani. Ad ogni attimo penso sempre a domani, perché accadono particolari circostanze. Ma tu no, non ti devi abbattere. Quell'attimo può sconvolgere i miei piani. Ad ogni attimo penso sempre a domani, perché accadono particolari circostanze. Ma tu no, non ti devi abbattere. Non mi sento bene, sarà colpa del tempo. Ma com'è che ogni giorno sto sempre peggio? Sono riflessioni che fai per ore. Depresso ma vorresti splendere come il sole. E lo sai che mi butto giù. Guardo lassù, fantastico cielo blu. E cosa ci sarà sopra quel cielo? Me lo chiedo spesso e vorrei proprio saperlo. Ad immaginarmi un mondo diverso, mi dispiace ma proprio non ci riesco. Non posso evadere da questa realtà, perché questa non possa andare via da qua. Non cambierebbe niente, problemi sempre quelli. È facile non averli, basta che non ci pensi. Ma tornano in mente ad evitare, non ci riesci. Quell'attimo può sconvolgere i miei piani. Ad ogni attimo penso sempre a domani, perché accadono particolari circostanze. Ma tu no, non ti devi abbattere. Quell'attimo può sconvolgere i miei piani. Ad ogni attimo penso sempre a domani, perché accadono particolari circostanze. Ma tu no, non ti devi abbattere. In un attimo penso miliardi di cose, come sarebbe il mondo senza alcune persone. Coltivo i miei valori e tu devi restarne fuori. Le critiche a me se a farle sono i peggiori. Il mondo è prepotente ma io lo prendo a pugni, anche se per me sono tempi bui. Tutti gli amici ti danno la forza per rialzarti e combattere un'altra volta. E se questo non accade, fatti forza da solo. Credi in te stesso e così diventerai un uomo. Ti farei una vita e vedrai che è successo. Ti stimeranno tutti e avrai il loro rispetto. E se il mondo non va bene tu vagli incontro, sfogati al massimo e vedrai che liberazione. Ti farei sentire e gli darai una lezione. Quell'attimo può sconvolgere i miei piani. Ad ogni attimo penso sempre a domani, perché accadono particolari circostanze. Ma tu no, non ti devi abbattere. Quell'attimo può sconvolgere i miei piani. Ad ogni attimo penso sempre a domani, perché accadono particolari circostanze. Ma tu no, non ti devi abbattere.